La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato ai 60 anni dalla riforma fondiaria. In occasione di questo anniversario, lo scorso 11 e 12 novembre, alla Camera dei Deputati, è stato organizzato un convegno nazionale per iniziativa dell'Istituto Alcide Cervi e della Confederazione Italiana Agricoltori. Tra i relatori, Mario Pacelli, oggi ospite ai nostri microfoni. La parola adesso va a Dino Pesole. Il 1950 è un anno di grandi riforme per il nostro paese, riforme messe in atto dal governo centrista presieduto da Alcide De Gasperi. L'economia italiana, dopo gli anni della ricostruzione dell'immediato dopoguerra, ha imboccato la strada di una ripresa basata sul forte impulso della produzione industriale. Riforma fiscale, che reca il nome di Ezio Vanoni, provvedimenti per l'edilizia popolare, ma il 1950 è anche l'anno in cui il governo De Gasperi approva la legge di riforma agraria, sarebbe meglio e più corretto definirla riforma fondiaria, predisposta dal ministro dell'Agricoltura e futuro presidente della Repubblica Antonio Segni. In realtà si trattò di un percorso legislativo a più tappe. Prima la riforma fondiaria interessò solo i territori dell'Altopiano Silano e i territori ionici. Poi con la legge stralcio del 21 ottobre del 1950 appunto furono interessati anche i territori del Delta Padano, della Maremma Toscana, Laziale, della Campania, Puglia e Lucania, oltre che Calabria e Sardegna. Nel dicembre fu la volta della Sicilia. Nel complesso la riforma interessò circa il 30% della superficie agraria e forestale del paese. Furono espropriati 800.000 ettari, dei quali 650.000 nel mezzogiorno. Si realizzava così uno degli obiettivi politici di De Gasperi: creare una classe di piccoli proprietari, migliorare le arcaiche condizioni dell'agricoltura in alcune parti del paese, consolidare un'iniziativa di giustizia sociale, la costruzione della democrazia. Riforma importante ma controversa, che produsse solo in parte gli effetti sperati. Da un lato si polverizzò in maniera notevole la dimensione delle aziende agricole, togliendo di fatto ogni possibilità di trasformarle in veicoli imprenditoriali avanzati. Dall'altro si diede vita a importanti forme di cooperazione. La riforma ridusse il latifondo, abbattendo così la struttura arcaica su cui i grandi proprietari terrieri avevano costruito le loro fortune, ma non riuscì a creare le condizioni per un'agricoltura più moderna e vitale, né migliorò la condizione contadina. Ai 60 anni della riforma fondiaria è stato dedicato un convegno nazionale lo scorso 11 e 12 novembre alla Camera, per iniziativa dell'Istituto Alcide Cervi e della Confederazione Italiana Agricoltori. Nel corso del convegno è stata proposta un'intervista nel 1960 a Emilio Sereni, figura di spicco, politico, giornalista, partigiano e storico dell'agricoltura. Credo che si debba dire che quel tanto che è stato fatto nel senso di una riforma agraria ha avuto un'influenza decisiva nell'avviamento dell'agricoltura nazionale ad un moderno grado di sviluppo. Dopo la riforma, non a caso, la produttività del lavoro agricolo è enormemente aumentata nel nostro paese. Questo ha reso possibile un esodo rurale che è avvenuto in modo disordinato e sbagliato, ma che tuttavia è un indizio dell'aumento della produttività del lavoro agricolo che l'opera di riforma e i progressi generali dell'economia italiana hanno condizionato. Abbiamo in linea il professor Mario Pacelli, docente di istituzioni di diritto pubblico alla Sapienza di Roma, uno degli animatori del convegno dell'11 e 12 novembre alla Camera. Ci dica, lei ha avuto anche un'esperienza diretta, ha conosciuto i protagonisti di quella riforma fondiaria, quindi ci può dare anche una sua valutazione di prima mano su cosa fu e quale fu l'impatto di questa riforma fondiaria del 1950. Funzionario parlamentare, ho conosciuto segni che al momento della riforma fondiaria era il ministro dell'agricoltura, come ho conosciuto Bonomi che era il presidente della Coldiretti e tanti altri come Licausi che fu uno dei protagonisti delle grandi battaglie dei contadini per la terra degli anni 50. E proprio attraverso la conoscenza diretta dei personaggi, dei protagonisti di quella riforma, posso dire che fu una iniziativa legislativa estremamente saggia, ma che non fu capita probabilmente se non come un momento della lotta politica tra Democrazia Cristiana da una parte e Partito Comunista dall'altra, ma che viceversa, come intuivo, un pezzo del Partito Comunista e un pezzo della Democrazia Cristiana era soprattutto una guerra contro un'Italia impossibile da mantenersi in vita, un'Italia che nel meridione aveva tutti i tratti dell'Italia feudale, con dei rapporti politici praticamente inesistenti e in cui la proprietà fondiaria condizionava la stessa rappresentanza politica. Ecco, nel bilancio di quella riforma c'è anche chi ha messo in luce come fosse sicuramente una riforma di grande rilievo e spessore, ma che tuttavia non riuscì a creare le condizioni per un'agricoltura più moderna e vitale, né riuscì a migliorare le condizioni di vita dei contadini. Lei condivide questa critica? Io ho già detto anche durante il convegno nella mia relazione che questa critica è fuorviante, perché non tocca il nodo del problema. Allora il problema era di decongestionare una situazione che andava facendosi sempre più pesante. I contadini poveri del Mezzogiorno come del Nord erano alla ricerca di un pezzo di terra da coltivare per uscire da una condizione ormai secolare di miseria, e non esitavano assolutamente a scendere per le strade, per le campagne, per le piazze con morti e feriti, sia da una parte che dall'altra, sia da parte dei mostranti che delle forze dell'ordine. Ora, pensare che in quel momento potesse essere prevalente l'aspetto tecnico, che aveva tra l'altro molti sostenitori, della costituzione di unità poderali che fossero in grado di offrire un reddito sufficiente al contadino, passava in seconda linea rispetto alla esigenza di far calare i toni della protesta. Questo lo disse durante il dibattito parlamentare, lo disse con estrema chiarezza un giovane deputato democristiano destinato poi ad avere un lungo futuro politico come Gui, che disse molto francamente che il problema tecnico veniva dopo il problema politico, che era proprio quello di una pacificazione nazionale. E teniamo presente, tanto per avere il quadro completo, che fu De Gasperi, come risulta dai verbali dei consigli dei ministri di quel tempo, a dover imporre la sua volontà anche contro alcuni ministri, non solo democristiani, ma anche socialdemocratici e repubblicani, contrari al disegno di legge di riforma, proprio in nome della pacificazione nazionale. Noi l'abbiamo ricordato all'inizio di questo nostro approfondimento odierno che il 1950 fu un anno di grandi riforme per il nostro paese, messe in atto dal governo De Gasperi, la riforma fiscale, ma anche i provvedimenti sull'edilizia popolare. In che modo la riforma fondiaria si inserisce in questa stagione di grande attivismo riformatore? Siamo negli anni 50, cioè prima del congresso della DC di Napoli del 54, che segnerà una specie di taglio tra il vecchio e il nuovo. Sono le forze innovatrici della DC, il partito di maggioranza relativa, che spingono fortemente perché il governo si impegni a quelle trasformazioni politiche e sociali volute dalla Costituzione. Quindi siamo alla prima fase di attuazione della Costituzione. una Costituzione che segnava una netta, o perlomeno avrebbe dovuto segnare, anche se passò un po' di tempo prima che questo accadesse, una linea di frattura tra la vecchia Italia monarchica e l'Italia repubblicana. Molto spesso, lo ha fatto anche di recente il presidente Napolitano, viene rievocata quella stagione appunto per sottolineare come ci fosse all'interno delle forze politiche, pur nelle durissime contrapposizioni che lei stesso poco fa citava tra Democrazia Cristiana e comunisti, però ci fosse comunque una comune intenzione, un modo di vedere, di impostare il futuro del nostro paese che poi nel corso degli anni si è perso. Lei condivide questo punto di vista? Non solo lo condivido, ma credo che il vero problema sia chiedersi il perché questo avvenne. Ora, su questo ci sono state avanzate varie tesi. Una delle tesi è che in realtà si proiettò negli anni successivi lo spirito del CLN, cioè della solidarietà tra le forze antifasciste, che guardavano anzitutto, al di là delle divisioni di carattere politico, all'attuazione dei principi ratificati in Costituzione. Questa è una delle tesi. L'altra tesi è che in realtà non poteva non avvenire la instaurazione, l'inizio di una stagione di riforme, perché le istituzioni regge, le istituzioni della monarchiche erano, malgrado la scossa datagli dal fascismo, ancora ottocentesche, ancora vecchie, ancora tanto arretrate da non essere improponibili ormai a una generazione che dopo la Seconda Guerra Mondiale le aveva viste veramente tutte.